recuperare tutti quegli spazi che abbiamo in Italia, che sono in gran parte abbandonati e possiamo utilizzare in maniera migliore. Abbiamo molta necessità di spazi, torniamo in presenza e credo che utilizzare al meglio gli spazi che abbiamo all'interno della nostra città sia molto importante. Quali sono le facoltà appunto che verranno coinvolte principalmente nel progetto? Sono diverse le competenze che possiamo mettere a sistema, dalla parte ingegneristica, architettura, ma anche tutta la parte di agraria per le aree verdi, insomma credo che siano diverse gli ambiti, ma anche la parte chimica per l'analisi dei terreni, dei suoli coinvolti, credo che siano diversi gli ambiti e di interesse, lavoreremo su tutti quelli che prevederanno poi accordi specifici. L'accordo è per lavorare, per progettare, fare progetti di ricerca su come utilizzare questi spazi. Non è che stiamo parlando di uno specifico oggetto in questo momento. Noi abbiamo un piano edilizio già deliberato, già progettato, stiamo applicando ai bandi del PNRR. Il nostro piano edilizio ha già uno sviluppo rilevante che porterà ad un investimenti consistenti nell'Ateneo di Bologna per i prossimi 6 anni di mandato, in particolare per i prossimi 3 del PNRR. Sono il nostro interesse principale perché sono quelle opportunità di valorizzare interi territori, quindi restituire queste aree non più utili per gli usi militari alla cittadinanza, pensando a progetti che interessino tutta la collettività. Però ci possono essere collaborazioni più puntuali anche su caserme in uso, ad esempio su gli aspetti di riqualificazione energetica o di ristrutturazione sismica, perché comunque le caserme spesso sono caratterizzate da un patrimonio storico importante e quindi se ci venisse chiesto di collaborare anche su questo, chiaramente le nostre competenze tecniche possono essere messe a buon frutto. Quindi su Bologna non c'è nessun punto individuato specifico? No, adesso no, perché questa è una convenzione quadro, un accordo di collaborazione che si aprirà poi a accordi specifici attuativi, anche in collaborazione con il Comune che a sua volta ha firmato un accordo col Ministero, quindi ci potranno essere sinergie che si andranno ad attivare anche sulla base delle strategie che il Comune vorrà mettere in atto o di sollecitazioni che ci arriveranno da anche associazioni, cittadini o dallo stesso Ministero della Difesa. Crediamo fortemente perché riteniamo che sia per le aree dismesse che per quelle che invece rimangono in campo alla difesa, la collaborazione con il mondo universitario, con il mondo della ricerca possa dare dei grandi benefici, dei grandi frutti per il dicastero e per il territorio, soprattutto in termini di riduzione di occupazione di suolo, ecosostenibilità e rispetto dell'ambiente. Di quanti edifici, di quanti progetti stiamo parlando, entro quando ci dia un po' di numeri? Io non vorrei porre un limite perché l'accordo che oggi abbiamo firmato con l'Università di Bologna non necessariamente riguarda il territorio di Bologna, ma penso alla Stamoto, penso alla caserma Perrotti, eccetera, ma il prestigio e le potenzialità di questa università mi fanno sperare in una collaborazione sull'intero territorio nazionale. Quali sono le aree militari qui sul territorio, al di là della collaborazione nazionale, che secondo voi hanno più necessità di un intervento in tempi rapidi? Beh, io direi soprattutto perché questo possono dare veramente una ricchezza di rigenerazione urbana, pensare intanto alla Stamoto e alla Perrotti. In passato forse non si è avuto nella valorizzazione di ex caserme il migliore auspicio per la gente. La volontà oggi del Dicastero con l'università è quella di guadagnare il tempo perduto.